2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Anche quest'anno siamo al Salone Nautico di Genova, così come lo scorso anno, così come altre trasmissioni di Radio 24 in questi giorni, quindi veniteci a trovare al nostro studio esterno al Salone Nautico di Genova. Come sempre ci sono delle barche fantastiche, bellissime, il regno, oltre che della tecnologia, anche del design. Negli ultimi anni abbiamo raccontato molto della tecnologia che c'è attorno a queste barche, ma visto che abbiamo praticamente raccontato quasi tutto, se non tutto, e nel nostro archivio potete andare a riascoltare le nostre puntate degli scorsi anni, per quest'anno abbiamo deciso di dedicarci al mondo dello sport. Scopriremo tra poco questo che cosa significa. Dicevo, questo è 2024, potete raggiungerci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, o potete anche utilizzare i social network come Twitter e Facebook. Come sempre iniziamo, anche se questa settimana in forma un po' più ridotta, dalle nostre digital news. Digital news. Iniziamo da un annuncio che era nell'aria da qualche settimana. Google ha annunciato di aver acquistato la divisione mobile di HTC. HTC è uno dei più noti produttori di smartphone, è stata acquistata per una cifra tutto sommato contenuta, parliamo di 1,1 miliardi di dollari, che per noi comuni mortali è una cifra piuttosto importante, ma se parliamo di un'azienda nota, soprattutto con un brand noto come HTC, non è una cifra molto alta. Rimane da capire qual è la strategia di Google nell'hardware, visto che Google aveva acquistato Motorola, poi l'aveva venduta, quindi sembrava essere uscito dall'hardware, invece questa è una decisione per tornare ad entrare. Chissà quale sarà il futuro degli smartphone Pixel, quindi gli smartphone marchiati Google. Una notizia che riguarda il mondo dei robot casalinghi, quelli che aspirano o in alcuni casi puliscono anche lavando per terra. Abbiamo parlato qualche settimana fa di Neato e di Vorwerk, abbiamo parlato ampiamente di questi robot spiegando come funzionano. Beh, la notizia di questa settimana è che Vorwerk, che è famosa per il marchio Folletto, quindi è molto molto nota, ha deciso di acquisire un'azienda americana specializzata in robot casalinghi come Neato. Vorwerk aveva già una partecipazione in Neato, ma ha acquisito tutta l'azienda. Una notizia che riguarda una startup americana che si occupa di pagamenti in mobilità, è disponibile da questa settimana anche nel nostro paese, Circle, che al momento permette di fare passaggio di moneta in modo molto semplice da una persona all'altra, si dice peer-to-peer, non molto altro, quindi non permette di fare pagamenti presso gli esercenti. Francamente non mi sembra che sia una grande soluzione, ci sono tantissime altre soluzioni che permettono di fare pagamenti peer-to-peer, cioè dare soldi attraverso lo smartphone in maniera molto veloce a un nostro amico o comunque a un contatto che abbiamo sullo smartphone. Non mi sembra che Circle aggiunga molto altro, vedremo quali saranno gli sviluppi nel nostro paese. Ultima notizia riguarda una startup italiana che si chiama Reaxing, che è dedicata all'allenamento, al fitness, all'allenamento sportivo. Ha sviluppato una metodologia particolare basata su un mix di stimolazioni luminose, sonore e tattili. Beh, ha ricevuto finanziamenti per 3 milioni di euro, che per il mercato italiano è sicuramente una cifra molto importante. Saluto il primo ospite di questa puntata di 2024, Matteo Campodonico, che è amministratore delegato e fondatore di Y-Scout. Benvenuto a 2024. Ciao, grazie. Allora Matteo, intanto Y-Scout con la Y-Scout, che cos'è? È una idea che tu hai avuto assieme ad un tuo socio quanto tempo fa? Ma era il 2004 e abbiamo iniziato, visto che io ho giocato a pallone e un mio allenatore, per insegnarci i movimenti offensivi, ci faceva vedere i video di Baggio, Van Basten e via dicendo, e il problema era che ce le faceva vedere con le videocassette, sì. Non trovava mai il punto. e noi giocatori ci stufavamo. Certo, adesso vi faccio vedere il calcio d'angolo e voi aspettavate. Esatto. Un po' di anni dopo è arrivata la tecnologia, tra virgolette, del DVD. Allora mi è venuto in mente, ma potrei rifare la stessa cosa, però anziché usando le videocassette, DVD. Sì. Quindi abbiamo iniziato a riprendere le partite locali, Chiavari e dintorni, e facevamo questi montaggi per gli allenatori dilettanti. Siamo partiti così. In modo molto amatoriale, Chiavari, qui vicino a Genova. Poi un giorno ci è venuta la brillante idea di, dicevamo, ma il lavoro è fatto bene, non abbiamo niente da perdere, allora abbiamo fatto una copia del DVD più bella che abbiamo fatto e l'abbiamo portato a Cosmi, allenatore del Genoa, il quale ha visto il DVD e ci ha chiamato. Da lì abbiamo iniziato a lavorare con i professionisti e lavorando con i professionisti ci è venuto in mente l'altro progetto che oggi dà vita essenzialmente a quella che è l'azienda, che è questa super piattaforma, un database di calciatori, partite, squadre, eccetera. Sì, un grande archivio di immagini e di informazioni. E di dati. Sì, sì. Di dati, poi parleremo di dati. Mm. Allora, questo è l'inizio per dire brevemente il punto d'arrivo. Voi oggi siete il più grande archivio, il più grande database mondiale dedicato ai professionisti del calcio. Poi spieghiamo chi sono i professionisti e chi usa Y-Scout su internet, in cloud, un'azienda che quanti siete oggi? Ma oggi nel mondo diamo lavoro a circa 450-500 persone. Un'azienda che è cresciuta molto, possiamo dire che quante fatturate oggi? No, stiamo arrivando ai 10 milioni. Quindi siete cresciuti molto velocemente, molto bene. E chi è che utilizza i vostri servizi e a che cosa servono? Quindi abbiamo detto un archivio immenso di immagini e io posso vedere calci d'angolo, calci di rigore. Esatto. Partiamo dai mister che devo giocare, sono il Genoa, devo giocare contro l'Inter. Mi vado a vedere come batte i calci d'angolo l'Inter, ma non solo l'ultima partita, tutti i calci d'angolo della storia dell'Inter, oppure il movimento del singolo giocatore. Arriva un giocatore nuovo all'Inter, come si muove? Devo andarmi a vedere come giocava in Spagna. Sì. E questo è quello che fanno. Lo usa l'allenatore, lo usa lo stesso giocatore. Noi oggi abbiamo i giocatori, gli abbiamo fatto un'app, perché loro PC non ce l'hanno, allora gli abbiamo fatto un'app dove loro possono, prima della partita sul pullman, hanno un dubbio, non si ricorda chi lo marca, vanno a vedersi magari i movimenti, le finte, eccetera. Cioè uno sullo smartphone accede al vostro archivio e si vede tutto quello che vuole. Sì. Fantastico. Lo usano i procuratori, perché io ho i miei assistiti, allora mi guardo quando fanno qualcosa di buono o una statistica particolarmente interessante, la invio ai direttori sportivi. Addirittura possono contattarli, è una sorta di LinkedIn. Possono contattarli e iniziare a scambiarsi messaggi. Quindi da questo punto di vista è, non so se già oggi utilizzata molto, ma una piattaforma anche per lo scambio e la compravendita di giocatori. È il pre, dove iniziano tante trattative. Sì. Pensa, da un archivio io capisco magari alcune cose, posso. Lo usano anche gli arbitri. Lo usano gli arbitri, da 2 anni che collaboriamo con la UEFA, abbiamo iniziato con gli arbitri FIFA, perché l'arbitro oggi, il livello di preparazione di una partita dell'arbitro è esattamente lo stesso che fa il mister con i ragazzi, quindi loro si preparano la partita andandosi a vedere i giocatori uno per uno, si butta, non si butta, protesta, non protesta, no? per conoscerli. Ma anche i modelli di gioco, la squadra, guardano le statistiche, è una squadra che gioca in contropiede o no, gioca corta, gioca lunga, perché se fa tanti contropiedi mi serve un arbitro che corre. Certo. E via dicendo. Interessante. Voi lo fate per che tipo di squadre? Perché qui viene il bello. Adesso ci sono tante cose. Questo sì che è il bello, nel senso che noi siamo partiti col Rapallo Calcio. Sì, oggi sì. Siamo al Barcellona, all'Arsenal, al Manchester United. Cioè, voi coprite in Italia la Serie A, la Serie B e tutta un'altra. Sì, fino alla Serie D. E okay. Iniziamo tutti i campionati giovanili nazionali, però questo è in tutto il mondo, quindi oggi noi schediamo, monitoriamo circa 100 paesi e poi nei 100 paesi diciamo i principali, quasi tutte le squadre sono clienti oggi. Pazzesco, incredibile. Quindi quante squadre? Abbiamo circa tra gli 800 e i 900 squadre. Che pagano un abbonamento giusto per accedere a questo tipo di dati? L'abbonamento costa dal 10 euro. Perché un giocatore della primavera del Chievo Verona gli diamo la possibilità di pagare 10 euro. Certo. la Juventus, che evidentemente usa Y-Scout con tutto il suo staff di osservatori, tutto il suo staff di mister prima squadra, i giovanili, i giocatori, eccetera, eccetera, hanno abbonamenti di qualche decina di migliaia di euro. Certo, certo. Come acquisite questo materiale? Perché voi acquisite ogni settimana sicuramente, ma magari anche ogni giorno, tantissime immagini, perché acquisite le partite, ma poi le partite le fate a fette. Esatto. Allora, tanto ogni giorno, ogni ora, perché il calcio è mondiale e certo, giocano sempre. Il Natale esiste da noi, ma non esiste in altri paesi. Sì, poi ormai giocano il martedì, mercoledì, allora, giovedì, proprio cioè, gli anticipi, i posticipi. Tre mesi fa abbiamo inaugurato il primo turno notturno in ufficio. Ah. Proprio ora siamo 24 ore per 365 giorni. E come le acquisite queste immagini? Perché chi ve le dà le immagini? È un mix infinito di fonti video, che partiamo dalla Serie A, dove andiamo in Lega dagli advisor che è Infront e chiediamo e compriamo le immagini, fino alla Serie D, dove sono le squadre che ce le caricano. Ok, quindi le giovanili, dove non ci sono neanche le riprese, le andiamo a riprendere. Quindi è un mix di raccolta a 360 gradi. E avete i diritti per sfruttare questa immagine? Questo è un esempio di innovazione interessante. Sì, legale in questo caso. È stato un percorso che non è ancora finito, perché il mondo è grande e stiamo andando avanti, perché noi abbiamo iniziato a fare questo servizio con le squadre. Sapevamo che utilizzavamo delle fonti video, perché la normativa dei diritti ce la siamo letta, riletta, era non chiara, nel senso che non eravamo un media, però utilizzavamo i video. Certo. Quindi abbiamo fatto tutto un percorso di continua sollecitazione di chi ha i diritti, di dire: scusate, diteci cosa fare, possiamo lavorare, non possiamo lavorare, se non possiamo ci fermiamo, perché non dedichiamo la nostra vita. Certo, vogliamo essere legali. Vogliamo essere legali, e se no diteci, noi vogliamo pagare. E grazie a Dio, in particolare in questo caso la Lega di Serie A, che sono stati molto in avanti qua come innovazione, e Infront per primi hanno normato questo utilizzo di immagini, e a seguire tutti gli altri principali detentori di diritti nel mondo stanno andando dietro. Quindi esiste un particolare diritto per uso professionale. Esatto, diciamo che avete inventato voi, di fatto. Sì. Abbiamo aiutato anche noi a normare tutti quelli che fanno il nostro mestiere, perché non siamo gli unici al mondo, no? Sì. Quindi siamo stati un po' anche facilitatori di un'industria. Senti, noi adesso abbiamo parlato di calcio. Ci sono altri sport, o potrebbero esserci altri sport? Perché fatta la tecnologia e costruito una conoscenza, un know-how, come si dice, poi uno potrebbe sfruttare anche per altri sport. Sì, sì, noi diciamo continuiamo, riceviamo continue sollecitazioni da aziende, persone che dicono: ma perché non ce lo fate nel rugby, perché non lo facciamo nel... Oggi è solo un tema di aziendale, di sforzi, di focus, certo, persone. Di persone, ne abbiamo così tanto da fare sul calcio, dove siamo un brand, però chissà, magari tra qualche anno riversiamo tutta la tecnologia in altri sport. Certo. Non è oggi. Senti, a proposito di tecnologia, molte di queste cose ancora oggi vengono fatte in modalità manuale, cioè ci sono persone, tu hai detto che date lavoro a quasi 500 persone in giro per il mondo, che vanno ad archiviare queste immagini scrivendo: questo è un calcio d'angolo, quindi se io vado a cercare il calcio d'angolo, automaticamente poi nell'archivio mi propone tutti i calci d'angolo, così come tutte le altre azioni. E questo è un lavoro che non si può automatizzare. Sì, noi abbiamo intanto creato un software che aiuta i ragazzi a dire: questo è un calcio d'angolo, velocemente, con un click. Però macchina capisce. No, allora il primo step è stato agevolare il lavoro manuale, che oggi è manuale, però stiamo lavorando, perché la tecnologia oggi consente di dire automaticamente questo è un calcio d'angolo, questo è un rigore, questa è una punizione dal limite, con un sistema di tracciamento delle immagini automatico. Non riesce invece la tecnologia a dire: questo è un passaggio filtrante fatto da Pirlo. Sotto pressione. Sì. Perché quello che vuole fino a quel particolare. Sì, perché quello che vuole sapere un allenatore è questo. Non gli interessa, questo è un passaggio. No, è un passaggio filtrante fatto dal giocatore sotto pressione. Incredibile. Questo aspetto qua è umano, però certamente questo aspetto non serve farlo per gli allievi under 16. Certo. Ci sono vari livelli di analisi a seconda dell'importanza del campionato. Quindi per questo stiamo lavorando sull'automazione, per poter scalare, andare sempre di più, sempre di più in fondo. Per fare molte più cose. Molte più partite, tutti i livelli, eccetera. Perché come io ho iniziato da dilettanti, anche oggi il dilettante di terza categoria, Mister, possa usare la sua tecnologia. Sì, sì, sì. Questa è una tecnologia che è nata nel cloud, giusto? Allora, siamo arrivati al cloud dopo. Perché è stata l'evoluzione naturale. Oggi abbiamo tera di materiale, di dati, eccetera. Siamo partiti dal nostro server a Chiavari, poi non bastava più, l'abbiamo messo a Milano, poi l'abbiamo portato ad Amsterdam, poi in Cina non si sentiva e alla fine siamo arrivati a cloud. Quindi i dati sono sparsi in tutto il mondo, o comunque dove, avete, dove ci sono i data center dei vostri fornitori. Una cosa che oggi si parla, noi a 2024 parliamo spesso di sistemi di intelligenza artificiale, macchine che riescono ad imparare. Da questo punto di vista che cosa potreste fare? Ma quali tanto sono gli scenari? Tanto, perché la produzione di dati che facciamo noi sul calcio oggi non la fa nessuna azienda, altra azienda al mondo a questo livello di profondità. Ci sono tante aziende che producono dati per il betting, per chi fa scommesse, per chi fa la TV. Ma noi, essendo un'azienda di calcio, andiamo a una profondità unica. Certo. Per cui il torneo di Viareggio, il famoso torneo di Viareggio, noi lo scoutizziamo, lo analizziamo azione per azione, dato per dato. Il che vuol dire che questa base dati nostra di milioni e milioni di dati prodotti ogni settimana può essere interrogata in tanti modi, o per il giocatore, quindi sarebbe interessante, possiamo farlo, non lo abbiamo, stiamo ancora facendo, ma lo faremo, dire ad esempio Neymar 3 anni fa che tipo di giocatore era, come movimenti, velocità di movimento, numero di passaggi, numero di dribbling. C'è qualcuno nel mondo che oggi è come Neymar 3 anni fa? Oppure sto cercando, mi si infortuna la punta centrale che fa certi tipi di movimento, c'è statisticamente parlando un giocatore simile? Chiaro, nel calcio la statistica non basta, è per questo che noi abbiamo i video, così supportiamo la statistica col video, però è una bella, è un bel aiuto per chi fa questo lavoro. Certo, ed è anche una bella sfida questa di riuscire a trovare una tecnologia, un sistema che grazie alla capacità delle macchine di imparare, quello che si chiama machine learning, possano comprendere e capire che un giocatore si muove in un certo modo, perché i movimenti, ne parlavo anche recentemente, sono una caratteristica biometrica unica che comunque può essere interpretata, correlata, messa. Prima parlando facevo questo esempio, giusto per capire quello che potreste fare voi fra qualche, che ne so, mese. La tecnologia va così veloce che magari fra qualche mese potreste fare questo, oppure qualcuno che ci sta ascoltando conosce già una tecnologia che potrebbe essere adatta e vi dice guardate che noi potremmo già averla. Dicevo, così come oggi se io ascolto una canzone attraverso un servizio di streaming o guardo un film attraverso un servizio di streaming, soprattutto dopo che ne ho guardati un po' o ascoltate un po' di canzoni, il sistema comincia un po' a imparare e dice ah, a te piace questo tipo di, questo genere o questo tipo di cantanti, magari, che ne so, solo voci femminili per esempio, e il sistema comincia a suggerire. Quindi potreste fare una cosa del genere, certamente, cioè all'allenatore suggerire giocatori simili. Calciatore simile, oggi questo loro lo fanno manualmente, tra virgolette. Il Barcellona, il loro dipartimento scouting, hanno una gigantografia a muro dove ci sono tutte le zone del campo, ad esempio c'è Iniesta e poi sopra Iniesta ci sono altri 8 giocatori che sono Iniesta, il secondo sostituto di Iniesta e gli altri col ruolo di Iniesta che giocano nei giovanili, 8, con il colore verde, rosso e arancione. Se è rosso lo eliminano e ne cercano un altro con quel ruolo lì. Questo qua oggi lo fanno a mano. Il dato, capite che valore ha. Sì, sì, quando noi guardiamo una partita, almeno io che sono poco appassionato di calcio, ma immagino poi molti, nessuno immaginerebbe che dietro ad una partita di calcio ci sia un lavoro scientifico, perché poi questo è un lavoro basato su numeri, fondamentalmente su dati, così complesso, che diventerà sempre più complesso. Il trend è proprio quello. Noi ad esempio oggi già col dato siamo in grado di, con un click, di dire a una squadra guarda che nell'est Europa i giocatori nati nel 90 che hanno giocato almeno 20 partite con questo tipo di incidenza a partita sono questi 5. Sì. Quindi a livello statistico è un po', ora è brutto il paragone perché parliamo di ragazzi, però è come giocare in borsa, nel senso che se io devo prendere un giocatore, allora ne prendo 5, rischio. Certo, no, certo. Questione di rischio, opportunità. Opportunità. Chiaro, chiarissimo. Un aspetto molto interessante, ci terrei a sottolinearlo perché questo vale in generale per tutte le aziende. Voi avete un vantaggio competitivo anche perché avete un archivio storico, cioè avete dati, tanti dati di anni e anni fa, e mi piace ricordarlo perché a volte le aziende si fermano di fronte alla possibilità di raccogliere dati perché non sanno che cosa farne di questi dati. C'era uno tanti anni fa, un ingegnere famoso, che diceva: tu intanto i dati raccoglili, perché poi quello che ne farai lo saprai. Ecco, il vantaggio competitivo di avere tanti dati è molto importante, giusto? Sono d'accordo. Diciamo, abbiamo diversi vantaggi competitivi, quello dei dati e dell'archivio, tant'è che non abbiamo ancora iniziato a lavorare sui dati, perché per produrre qualcosa intelligente ti serve un po' di serie storica. Sì. E quindi ora che possiamo farlo, non vediamo l'ora di vedere cosa uscirà. Sì. No, non abbiamo citato i giornalisti, perché lo usano anche i giornalisti. Lo usano anche i giornalisti. Anche oggi, se voi guardate alcune trasmissioni, la statistica è citata sempre di più. Sì, e poi quando anche nelle telecronache. Certo, i telecronisti seguono i calciatori in tante partite, quindi ovviamente li conoscono, ma a volte il livello di conoscenza anche di uno appena arrivato è elevatissimo, perché vuol dire che hanno usato il vostro sistema. Si sono visti magari tantissimi commentatori che commentano Sky, che commentano Mediaset, che commentano in Rai, si preparano le partite con il nostro sistema. Sì. Senti, la vostra oggi è un'azienda, non siete più una startup. No, siamo un SPA. Esatto, siete eravamo un SAS. Però fino a poco fa eravate una startup. Sì, il confine di startup è molto. Sì, certo. Noi abbiamo cambiato 5 volte il nome per dire quanto è stato faticoso trovare la strada. Certo. Però diciamo, eravate una startup, certo. E avete fatto il percorso di tante startup che a volte non hanno il successo che avete avuto voi, ma a volte sì. Cioè, comunque la vostra è un esempio che anche in Italia si parte facendo la startup, si viene finanziati perché qualche soldo voi lo avete raccolto sul mercato. Noi siamo un bel esempio per tante cose, perché abbiamo fatto proprio questo percorso tipico. Noi siamo partiti con un investimento di 1.500 euro per comprare una telecamera e un PC. Sì. Per 4 anni abbiamo solamente reinvestito i contratti, i ricavi delle squadre. Dopo 4 anni avevamo questi del database, allora abbiamo iniziato a cercare un po' di soldi in giro, abbiamo trovato un business angel che ha creduto in noi, e questo è stato il primo step di investimento, che è stato i 200.000 euro nel 2008. Sì. E questo ci ha consentito di fare un salto. Poi, chiaro, quando l'azienda funziona, si vede prospettive, allora gli azionisti dicono: spingiamo, e oggi stiamo concludendo un altro aumento di capitale perché vorremmo arrivare a 20-30 milioni di fatturato. Certo. Però sì, siamo questo esempio qua. L'altro fattore che secondo me è interessante è che noi siamo rimasti a Chiavari. Bravi. Che la nostra sede è a Chiavari, sì. Che vuol dire che oggi si può fare impresa internazionale, perché noi fatturiamo in 90 paesi, l'Italia per noi è meno del 10%. Certo, sì, quando uno va su yscout.com, esatto. È in inglese. È in inglese. Certo, no, sì. Ma giustissimo, questo è un altro aspetto. Quindi è interessante anche questo, credo. Importante, giusto. A fianco a te c'è Stefano Tambornini. Stefano, benvenuto. Grazie. Noi ci conosciamo telefonicamente da un po' di tempo. Matteo, perché a fianco a te c'è Stefano? Perché giusto col mio chiamo business angel, ma è molto di più in realtà. Il tuo socio, ispiratore, sì, esatto. Eccetera. E quando Scout ha iniziato ad avere un po' di successo, abbiamo iniziato a ricevere email, chiamate di ragazzi che ci hanno visto cosa avete fatto, cosa hai fatto, vorremmo fare questa cosa, abbiamo questa idea, ci dai una mano, ci date una mano. E dopo un po' di abbiamo iniziato a sentire questi ragazzi, aiutarne qualcuno eccetera, ma poi ci siamo detti: ma perché non strutturiamo questo processo, che anziché rimanere così al sabato mattina tutto sconfusionato eccetera, e allora facciamo un ennesimo incubatore in Italia, sì. Che però metta a frutto quello che siamo. Quindi abbiamo detto: sì, facciamo un incubatore che ha da una parte la conoscenza di un mondo sportivo, tecnologico, che oggi abbiamo incredibilmente, perché tutta la tecnologia che c'è nel calcio ci passa davanti. poi possiamo portare la nostra esperienza di ragazzi che sono partiti da zero e hanno creato comunque un'azienda, e poi l'esperienza di un altro persona industriale che è il mio socio, che ne ha viste più di tutti noi, e quindi è un altro valore aggiunto. Certo, e avete dato il compito a Stefano Tambornini di creare questo nuovo incubatore. Abbiamo chiamato, anziché Y Scout, l'incubatore si chiama Y Lab. Y Lab, perché, esatto. Diciamo, Y perché ha la stessa origine di Y Scout, e Lab perché è un laboratorio di impresa. Sì. Con questo focus di incubatore sport e tecnologia. Stefano è il direttore. E... Sì, adesso infatti chiediamo a Stefano che cosa fa Y Lab. Voi siete il più importante incubatore di sport e tecnologia, quindi startup che in qualche modo sfruttano la tecnologia nel mondo dello sport. Esatto, assolutamente. Siamo il primo sport tech incubator in Italia. E siamo partiti a gennaio 2016, quindi diciamo siete abbastanza giovani, l'azienda è giovane rispetto a Y Scout, e in questi due anni abbiamo avuto modo, diciamo, di selezionare 200 startup, tutte legate al mondo dello sport, tanto calcio ma non solo. Sì. E abbiamo un processo di selezione che appunto prevede l'incubazione, l'accompagnamento, la consulenza alle startup. E ad oggi finanziamo anche direttamente le startup. Ad oggi 20 sono le startup incubate, 6 sono state quelle finanziate dall'incubatore, e abbiamo raccolto in totale Y Lab ma anche altri soci vicino al network, abbiamo finanziato le startup con più di 800.000 euro. Sì. E quindi diciamo accompagniamo i ragazzi dall'idea di, poi di per sé di fatto diciamo l'idea non basta, perché comunque diciamo ci vuole la fase di esecuzione fondamentale. Esatto. Le persone sono importanti. Senti, poi salutiamo anche Matteo tra poco, e poi conosceremo altri due ospiti, due startuppari come si dice. Esatto. In gergo. Ti vorrei fare una domanda sul mercato, l'ecosistema delle startup nel mondo dello sport. Prima di tutto, ci sono idee, ci sono talenti? Allora, sappiamo benissimo che in Italia abbiamo ancora il problema del finanziamento, quindi non ci sono tantissimi capitali che possono finanziare queste idee, però diciamo già se abbiamo le idee e i talenti abbiamo fatto un passo avanti. Qual è il tuo, non essere né troppo ottimista, però diciamo raccontaci quello che vedi in realtà tutti i giorni. Sì, sì, no, infatti, diciamo, da questi due anni di esperienza abbiamo effettivamente riscontrato il fatto che comunque il talento c'è. Uh-huh. Se pensiamo solamente alle tante esperienze di startup che sono avvenute non solo in Italia, ma noi appunto, come si diceva prima, siamo a Chiavari, in provincia. Attorno alla nostra realtà sono nate diverse esperienze. E già questo fa scoprire come appunto il talento c'è, va educato, va accompagnato, e infatti, ma questo è anche proprio il ruolo dell'incubatore, che parte appunto dall'inizio e quindi incuba un'idea, certo, e la fa crescere. Quindi da questo punto di vista siamo rimasti anche colpiti dai tanti progetti che sono arrivati. Poi è vero che il settore dello sport tech in Italia, ma soprattutto nel mondo, sta crescendo tantissimo, trascinato in primis dal valore dei diritti televisivi, che sono si è raggiunto il record storico quest'anno di oltre 100 miliardi. Mm. Il fatturato che finanzia tutto il sistema, quindi? Sì, perché di fatto poi a cascata i diritti in primis hanno come primo effetto che le squadre hanno anche, se parliamo di calcio ma non solo, perché sì, ultimamente ho capito, anche le squadre hanno più soldi da investire, quindi poi più soldi alle leghe, più soldi alle squadre, le squadre comprano più giocatori ma anche più tecnologia, mettono a posto gli stadi, investono su sistemi per i tifosi, e via dicendo. Certo, quindi questo alimenta anche, anche in piccola parte il sistema delle startup. Poi, sì, sì, questo sì, questo sì. Certo. Poi certo, se facciamo raffronti rispetto anche, anche agli Stati Uniti, parlando solamente di sport, meglio non farlo. Meglio non farlo. Bene, adesso noi ci fermiamo, c'è una breve pausa, questa è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io ringrazio Matteo per essere stato con noi, ricordo Matteo Campodonico, amministratore delegato e fondatore di Y Scout. Matteo, grazie, a presto. Grazie mille, ciao a tutti. Riprende questa puntata di 2024, questa settimana siamo al Salone Nautico di Genova, una puntata realizzata qui in mezzo a queste straordinarie barche nel nostro studio esterno a Genova. E in questa puntata abbiamo scelto di parlare di sport e di tecnologia. Poco fa abbiamo sentito la voce di Stefano Tamborrini, che è direttore di Y Lab, che è il più importante incubatore in Italia dedicato alle start-up dello sport. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo che tutte le nostre interviste le trovate in versione integrale nella nostra edizione podcast, il nostro super podcast. Vi ricordo anche che potete contattarci tramite Facebook, tramite Twitter e anche tramite la posta elettronica. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Stefano, a proposito di tecnologia e sport, di come la tecnologia sta cambiando il mondo dello sport, prima abbiamo sentito l'esperienza di Y Scout, quindi sfruttare la tecnologia per dare un servizio ai professionisti dello sport. Stiamo assistendo a tantissime cose, dai degli oggetti indossabili come braccialetti, orologi o altri sensori che uno si piazza lungo il corpo, i famosi wearable devices, ma a tutta una serie di altri servizi. Ovviamente immagino che a voi interessino in particolar modo quelli per il mondo professionale, perché si può creare un'azienda e si possono vendere molto più facilmente i servizi. Però raccontaci un po' quello che sta succedendo. Sì, sì, quello è vero. Secondo me in generale tutto il trend dello sport tech a cui stiamo assistendo determinerà sicuramente una crescita esponenziale della tecnologia, delle informazioni e dei dati a disposizione di tutti. Facciamo un po' di esempi giusto per capire. Mauro Migliazzi è fondatore di Wisi, benvenuto. Ciao, grazie. Benvenuto. Ciao, grazie. Allora Mauro, tu ti occupi di droni, che cosa c'entrano con lo sport i droni? Perché con i droni ormai si fanno un sacco di cose. Sì, allora, i droni posso dire che c'entrano con qualsiasi cosa. Sì, ormai certo. Noi non li usiamo solo nello sport, li usiamo nell'industria, in agricoltura, eccetera. Lo sport è una delle applicazioni che abbiamo messo in piedi un anno fa, quando siamo nati, e l'applicazione in particolare si occupa di monitoraggio dei campi in erba, che sia da golf o da calcio, prevalentemente il calcio, l'idea è nata con il calcio, e per valutare lo stato di manutenzione, lo stress vegetazionale, per dire un tecnicismo, dell'erba. Questo cosa vuol dire in parole semplici? Abbiamo visto una statistica in Inghilterra dove effettivamente l'erba è curata molto bene, particolarmente famoso bene. Prato all'inglese, certo. Esattamente. Beh, insomma, una statistica dove il grado di infortuni può essere legato alla manutenzione dell'erba. Senza fare nomi, ci sono casi in cui ci sono stati calciatori che hanno denunciato la società di manutenzione perché dalla prova televisiva hanno visto alzarsi la zolla, quindi si è data la colpa a chi ha fatto la manutenzione. Quindi non è solo una cosa televisiva, il campo in erba ben mantenuto, sappiamo bene che c'è un indice che è il greenness, il valore di verde, che è molto televisivo, ma in realtà è un dato molto importante. Noi oggi collaboriamo, a parte con la FIGC, abbiamo già fatto i primi rilievi su Coverciano, collaboriamo con la società, con la Sampdoria, con lo stadio e con il Genoa, ovviamente. Quindi voi mandate in giro questo drone sul campo con, esatto, delle videocamere, dei sensori, che cosa fa? Sì, allora, noi non utilizziamo sensori tradizionali, come si suol dire, sono sensori che riescono a leggere delle lunghezze d'onda nell'invisibile, nell'infrarosso, sì, infrarosso vicino, infrarosso medio, termico, queste sono le lunghezze d'onda che utilizziamo noi. Per dire che queste lunghezze d'onda che lavorano nell'invisibile vanno a rilevare anomalie vegetazionali prevalentemente, c'è tutta una teoria, una bibliografia che ha portato all'agricoltura di precisione. Sì, sì, perché stiamo parlando di fatto di agricoltura. Fondamentalmente sì, però le applicazioni sono leggermente diverse, tanto è vero che il nostro principale collaboratore, col quale abbiamo già pubblicato a livello internazionale due articoli su monitoraggio di erba, e dicevo che il nostro collaboratore principale è l'Università di Pisa, e senza fare i nomi dei professori vari con cui collaboriamo, comunque insomma loro sono gli esperti con i quali pubblichiamo, e c'è una teoria vera e propria, quindi sì, è scientifico, non è scientifico, certo. Quindi il vostro drone gira per il campo e poi il nostro drone, sì, il drone di per sé non è l'innovazione, l'innovazione è fare un monitoraggio regolare, e quindi a cadenza regolare. Ovviamente la serie storica è particolarmente importante, si parlava prima del dato storico, sì. Le tre caratteristiche che ci differenziano, ma questo per tradizione mia, nel senso per mia storia personale, essendo che provengo dal settore del telerilevamento aereo, sono il multitemporale, multiscalare e multispettrale. Quindi utilizziamo più bande dell'infrarosso, sì, nel visibile, sì. Voliamo spesso a cadenza regolare, e multiscalare vuol dire che a diverse quote di volo noi riusciamo a tirare fuori informazioni differenti. Questo è evidente se noi guardiamo, certo, la, certo. Quindi terra, voi fate tanti passaggi anche, esatto, a varie altezze eccetera, ma alla fine il risultato qual è? Cioè il risultato, che informazione mi date per far cosa? Allora ci tengo a precisare che è una cosa innovativa abbastanza strana anche per noi, ma in realtà si sviluppa velocemente, ma entriamo nella ricerca e sviluppo pura, quindi non c'è ancora l'applicazione completa e commerciale, come si suol dire, ma sicuramente oggi già collaboriamo con chi fa manutenzione, oltre che con le università. L'obiettivo mio principale, oltre a quello della manutenzione, è quello di dare indicazioni sì sul corretto mantenimento, sì sulla corretta tonalità di verde, sì sull'omogeneità del campo, ma soprattutto andare a visionare tutte quelle aree che subiscono stress per via di funghi o di altre cose, e che quindi sono suscettibili a attecchire meno. Quindi se io faccio il giardiniere, voi venite, fate tutte le vostre, i vostri studi, poi venite da me e dite: guarda lì, esatto, in quella parte del campo devi mettere, non so, concime, devi tagliare di più, devi innaffiare di più. Ma soprattutto se questo è importante sapere che la risoluzione a cui si lavora, quindi il pixel al suolo è dell'ordine del centimetro, sì, e questo per dire non servirebbe normalmente in agricoltura di precisione, non serve a nulla avere un centimetro. Nel caso dell'erba sì, perché è la singola zolla, non dico a livello del filo d'erba, ma l'anomalia nasce in un punto e si propaga con una velocità. Certo, quindi i campi, anche i campi di calcio, alcuni sono indecenti e quindi dovranno essere sistemati a prescindere da queste. Però, diciamo, dato un campo di calcio di un certo livello, questa tecnologia permette di fare quello che abbiamo detto. Niccolò Cavallo, benvenuto, ciao. Ciao, ciao, grazie. Tu hai fondato Noise Feed. Qua stiamo parlando non di droni, no, parliamo di droni, li lasciamo a Mauro. Social network, quindi parliamo di Twitter, Facebook, sì, aggiungine altri? Sì, beh, i più importanti social che oggi sono utilizzati da tutto il mondo. Instagram? Certamente, eccetera. Instagram che è quello che come trend di crescita è quello che è cresciuto, che cresce di maniera... più. Sì. Che cosa ci fate voi con i social network? Perché se noi parliamo di social network e di startup, di servizi basati sui social network... la ce lista sono è lunga, tanti, sì, certo. Ce ne sono tanti, anche diciamo non più startup, prodotti sì, principalmente americani, che hanno avuto successi planetari, direi, sì. Ma guarda, noi siamo, la nostra storia nasce da circa un anno fa grazie a un rapporto e a un dialogo con un proprietario di un club di Serie A, che mi ha chiesto in maniera molto diretta una mano, un aiuto, arrivando io diciamo dallo sviluppo di tecnologia, software, di sì, software, mi ha chiesto una mano per creargli una piattaforma che consentisse diciamo l'accesso in maniera veloce diciamo a tutte le informazioni dei propri giocatori in rosa da un punto di vista social, per poterli diciamo monitorare, conoscere e tenere sotto controllo. Perché certo, la domanda era: ma che cosa dicono quelli che fanno parte della mia squadra. Perché spesso questi canali qua, che sono diventati oggi ovviamente il punto di riferimento per i media, per i fan, per i tifosi, per ovviamente tutte le persone che seguono questo sport, in questo caso specifico calcio, sono diventati il punto di riferimento e spesso vengono utilizzati in maniera non corretta. Di conseguenza queste situazioni qua possono sfociare in problematiche di danno d'immagine, danno d'immagine alla società, al giocatore, casi mediatici, problemi con gli sponsor, perdita di sponsor, piuttosto che addirittura è successo con un ragazzino del PSG la risoluzione del contratto, perché usò in maniera impropria Twitter, nello specifico Periscope, e scoppiò un caso e creò dei danni parecchi a se stesso in primis. Sì. Beh, certo, tutte queste cose rientrano nell'ambito dell'educazione all'uso dei social network. Le società oggi, comunque tutte le società professionistiche, hanno un proprio, diciamo, hanno delle regole interne per come utilizzare gli strumenti. Sì. Comunque la nostra idea appunto nasce da questo dialogo e da lì abbiamo intuito un grandissimo potenziale in tutte le attività social legate appunto al mondo calcio e a tutte le attività web. Allora abbiamo costruito il più grande database al mondo oggi delle persone che lavorano in questo settore calcio. Quindi voi nell'archivio avete calciatori, allenatori, ex giocatori, leggende, mogli dei giocatori, che sono un altro sicuramente tema caldo per i club, per le reti stampa, per gli uffici comunicazione dei club. Abbiamo ovviamente le federazioni, le leghe, i club stessi, che sono ovviamente brand anche loro. E capite quello che viene detto? Noi abbiamo innanzitutto abbiamo il più grande archivio dal punto di vista social e web, quindi tutto il mondo viene mappato e viene importato, tracciato, sì. Monitorato. Vediamo se ho capito. Quando uno mi chiede, ma a Milano che cosa si dice di questa cosa qui? Perfetto, questo è un esempio calzante. Voi fate così sul social network? Assolutamente, cioè, sul social e sul web, nel senso che noi tracciamo di quella partita anche lì, che cosa si dice? Sì, partita, giocatore, diciamo, nello spettacolo. Quindi uno riesce a arrivare a quello che noi chiamiamo sentiment, quindi riuscire a arrivare proprio nello specifico a quello che sono i pareri positivi, negativi, c'è appunto un sentiment positivo rispetto a un giocatore, negativo, è visto bene, è visto male, la parte media parla bene del club, parla male del club, per quale motivo. Quindi uno riesce ad arrivare molto, diciamo, nello specifico. La piattaforma, come dicevo, è in uso ai club in questo modo, ai team manager, per ovviamente tenere tutti i giocatori sotto controllo. Vorrei tornare a Stefano Tambornini per parlare di mega trend, comunque di tendenze nel mondo dello sport e della tecnologia. Queste due cose come si combinano, guardando appunto alcuni trend che tu stai osservando? Sì, diciamo che sono stati identificati, secondo me, in maniera molto chiara 3-4 bisogni importanti. Il primo è sicuramente quello della performance degli atleti. Il secondo, l'esperienza del tifoso, che è sempre più digitale, meno attento a ciò che avviene in televisione, o magari anche nel momento in cui scorre o c'è una partita live, ha spesso il telefonino in mano. Il tema della gestione delle società sportive, da un lato, e poi anche il tema degli stadi, che sono anche temi interconnessi tra di loro, perché ovviamente uno stadio bello, uno stadio tecnologico, uno stadio anche di proprietà, diciamo, è sicuramente un concetto totalmente nuovo, che si lega anche all'esperienza che il tifoso fa, e non va alla partita all'ultimo minuto e non scappa appena accade il triplice fischio, ma concepisce la domenica, il mercoledì, la giornata in maniera completamente diversa. Certo. Questo sicuramente. Quando tu parli di performance dell'atleta, non parli solo di atleti professionisti, parli anche di uno che va a fare una passeggiata oppure uno che va a fare una corsa, giusto? Sì, assolutamente sì, gli appassionati di corsa, dico solo che nel prossimo anno si stima che verranno venduti più di 100 milioni di wearable, quindi in primis per monitorare gli appassionati di corsa e di tutte le discipline. Lo ricordo agli ascoltatori, è comunque un mercato molto più piccolo rispetto agli smartphone, perché di smartphone e telefoni vengono venduti 2 miliardi, sì. Quindi ecco, un po' meno, però siamo lì. Però anche quando parliamo di performance degli atleti, ho in mente una startup incubata da noi, Matten Sport, che è uno spin-off del Politecnico, loro lavorano sulla strategia e sulla tattica, quindi, o meglio, sull'ottimizzazione del gesto atletico. Quindi attraverso la ripresa video, che può essere anche la ripresa da un semplice smartphone, sono in grado di analizzare il gesto tecnico. Quindi se parliamo di gesti anche ripetitivi, la battuta di pallavolo, la battuta di tennis, sì, l'impugnatura della racchetta, ma anche appunto l'impugnatura nel golf. Quindi in sport dove ci sono gesti ripetitivi, adesso stiamo anche provando e verificando sul calcio di rigore. Quindi dal riconoscimento delle immagini ti dicono se stai tirando bene o male. Esatto, assolutamente sì. Quindi tecnologia quindi fatta sì di sensori, ma anche dall'immagine video. Così come diceva prima Matteo, che alcune informazioni che vengono recepite all'interno del database di WeScout sono appunto catturate dall'immagine video, anche in maniera automatica. Sì. Poi ovviamente ci vuole anche la qualità dell'operatore. Però è possibile appunto questo grande universo dei cosiddetti big data, di tutti di cui parliamo spesso, che derivano non solo da tutti i sensori, da tutti gli smartphone e dai cellulari che abbiamo, ma anche dall'analisi video. Quindi in questo senso l'analisi video supporta uno sviluppo tecnologico e l'innovazione, ad esempio, anche sull'ottimizzazione del gesto tecnico. Certo. Così come anche innovazione, digitalizzare tutta una serie di informazioni e processi che ad oggi sono sulla carta. Pensiamo dal tesseramento. Ah, vabbè, questo è tutto comunque un altro tema importante, dal doping al tesseramento ai referti. Sì, sì, sì. Non ultimo l'hackathon, la FIGC ha organizzato un hackathon 14-15 ottobre. E ci sono due sfide su cui si dovranno confrontare i ragazzi: uno sulla match analysis e invece l'altro, cioè analisi della partita, analisi della partita, sì, esatto, e invece poi l'altro è proprio quello di trovare soluzioni tecnologiche sul tema dei tesserati. 1,5 milioni di tesserati. Che cosa ci facciamo? Esatto. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Stefano Tambornini che guida YLab, a presto. Grazie. Grazie, grazie a Mauro Migliazzi, grazie molto, e anche a Niccolò Cavallo. Grazie. Ciao. È tutto per questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Grazie ad Andrea Roccabella che si è occupato della parte tecnica e anche della post-produzione di questo programma. Tra poco ci sono le notizie di GR24. Noi torniamo domenica fra le 13 e le 14. Una buona serata o una buona notte.